Popolare Network, sono le 22:25. Come promesso, soprattutto tutti possono partecipare, ovviamente, ma lasciamo la precedenza a chi sta tornando da Genova per raccontare quello che è successo, come è andata la sua manifestazione. 0239273109. Forse abbiamo già una telefonata. Pronto? Ciao, sto bene, sto tornando a casa. Più che deluso, sono molto triste, cioè non ho trovato, sono riuscito a trovare il senso, sono andato venerdì, ho cercato di manifestare, anche non volendolo mi sono trovato in mezzo a delle cose che non riuscivo a credere che fossero reali. Io ero con delle amiche, sia venerdì che sabato, con degli amici, tutti col mio stesso stato d'animo, spaventati, in lacrime, i ragazzi pestati, ambulanze che passavano a decine, no, io ne ho su due di feriti, non posso prendere questo, una cosa da film, da non crederci, lo immaginavo, ma vederlo mi ha veramente colpito molto e mi ha fatto pensare che non ne valsa la pena di venire fino qua per questo, perché non sono riuscito a comunicare niente a nessuno e ho visto soltanto una cosa che avrei preferito immaginare, basta. Noi siamo tornati da Genova, facevamo parte dello spezzone che è rimasto indietro, che è tornato sui suoi passi, poi noi siamo tornati in macchina, sulle colline in alto a Genova, in posti assolutamente lontanissimi dagli scontri, arrivava gente molto spaventata e inseguita. Correvano, arrivavano a gruppi, abbiamo trovato degli stranieri, delle spagnole, degli greci che ci chiedevano come si fa a tornare allo stadio. C'era una situazione veramente bestiale e la gente molto solidale. Quello che noi vorremmo capire è che cosa l'informazione normale, tra virgolette, racconta di Genova, cosa è arrivato di quella assurda follia che è stata lì. Ho appena sentito Enzo Lefebvre, che è uno dei responsabili del Media Center del Genova Social Forum, che è a pochissimo sopra Piazzale Kennedy, per intenderci, dove ci sono stati anche dibattiti e concerti, e mi ha detto in questi secondi, poi magari lo sentiamo direttamente, che la polizia con delle volanti sta entrando nelle pizzerie, nei pub accanto al Media Center, quindi in via Diaz, e sta perquisendo, identificando tutti quelli che hanno manifestato e che adesso stavano mangiando tranquillamente in questi pub o in queste pizzerie. Anche oggi ho alzato le braccia di fronte alla polizia che caricava compagni che tornano a casa con tumefatti perché sono stati colpiti in pieno viso da candelotti, eravamo proprio bersagli. Onestamente io, che oggi ho 51 anni, penso di non partecipare più a manifestazione finché esisterà questo stato di cose con le braccia alzate. Noi ci siamo trovati esattamente nel pezzo che è stato attaccato pesantemente e c'eravamo noi, una settantina di donne, c'erano ragazze dai 16 anni e donne grandi di 60-65. A un certo punto improvvisamente c'è stato questo attacco, noi e il gruppo forte di rifondazione dietro di noi ha alzato le mani e ha cominciato a gridare non violenza. Siamo stati aggrediti e hanno lanciato in maniera assolutamente gratuita lacrimogeni, c'è stato un grande panico, si è cominciato a correre, delle persone sono cadute, delle donne e degli anziani. In questo disastro c'è stata una cosa molto bella secondo me, che queste persone sono state immediatamente aiutate da tutti, soccorse, per quanto ci fosse panico, è rimasta la lucidità di dare una mano a chi in quel momento proprio perdeva la testa. In particolar modo mi piacerebbe anche ringraziare quei signori anziani e bravi di Rifondazione che ci hanno veramente dato una mano, perché cercavano di arginare e con la massima non violenza, solo col corpo, no? La forza d'urto della paura. Siamo qui per farci raccontare da Paola, che si trova a Genova e precisamente si trova all'Information Media Center, che clima si respira alla fine di questa giornata così drammatica e faticosa. Paola, ci senti? Sì, vi sento. Allora Paola, intanto dacci un attimo una descrizione del luogo dove siete. Beh, il nostro è uno dei pochi luoghi fisicamente più o meno accettabili, nel senso noi siamo in una scuola, è la scuola elementare e media di Yaz, per cui abbiamo una struttura quantomeno solida e questo ci ha salvato nei giorni di pioggia. E questo è sostanzialmente il centro informativo del Genova Social Forum, qui si trova l'ufficio stampa, il servizio sanitario e il servizio legale che sono al primo piano. Poi ci siamo noi di Radio Gap che siamo qui al secondo piano, che siamo un gruppo di radio che ha messo su questa cosa, il Genova Action Project. E c'è Carta, c'è credo anche l'ufficio di liberazione, non sarei del tutto convinta, poi c'è Indie Media che è una delle più importanti forme di comunicazione visiva e audio indipendente che ci sono. Fino a ieri sostanzialmente noi siamo stati proprio tranquillissimi, cioè questo era tutto un altro mondo rispetto al resto, negli altri posti c'erano perquisizioni, c'erano controlli, qui da noi devo dire non è mai venuto nessuno. Questa sera il controllo è un pochino più forte perché ci sono invece una serie di posti di blocco dove fermano le persone, chiedono i documenti, identificano, a volte portano via. Devo dire che in qualche modo sì, siamo stati più fortunati degli altri, forse proprio per il tipo di ruolo che poi noi abbiamo, sembriamo una situazione forse un pochino più ufficiale di quanto siano le altre. Non ci hanno mai toccato, non ci hanno mai fatto nulla, domani il forum finisce, noi domani mattina trasmetteremo ancora e poi smonteremo tutto e speriamo che non sia proprio questa la sera in cui dover smentire tutto fino adesso, perché la situazione comunque ha dimostrato di essere ingovernabile in tutti questi due giorni. Il Genova Social Forum sta incominciando a fare alcuni appelli per tanti episodi strani che sono accaduti ieri e oggi durante le manifestazioni. Uno in particolare, nel tunnel vicino alla stazione di Brignole, ieri è sfrecciato a bordo di una moto un uomo con una pistola in pugno. Aveva addosso una pettorina gialla dei giornalisti. La moto si è infilata rapidissima tra le camionette della polizia e da lì non si è più vista. Il Genova Social Forum per questo episodio cerca testimonianze, qualcuno che abbia per caso compiuto una ripresa di questo finto giornalista con la pettorina dei giornalisti armato di pistola. C'è poi un altro annuncio del Genova Social Forum di una prossima presentazione di un dossier di filmati sui cosiddetti black bloc e le loro azioni, tra cui un filmato con alcune persone vestite nello stesso modo di questi gruppi e che però consigliavano ai giornalisti di allontanarsi prima delle eventuali devastazioni, che è un procedimento, una pratica che questi gruppi teoricamente non dovrebbero adottare.